Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando alle 4:30 precise gli venne annunziata la venuta puntualissima di Don Calogero, il principe non aveva ancora finito la propria toletta, fece pregare il signor sindaco di aspettare un momento nello studio e continuò placido a farsi bello. Poi fece chiamare padre Pirrone e prima di uscire si fece il segno della croce, gesto di devozione che ha in Sicilia un significato non religioso più frequente di quanto si immagini. Traversando le due stanze che precedevano lo studio, si illuse di essere un Gattopardo imponente dal pelo liscio e profumato che si preparasse a sbranare uno sciacalletto timoroso. Ma per una di quelle involontarie associazioni di idee che sono la croce delle nature come la sua, davanti alla memoria gli passò l'immagine di uno di quei quadri storici francesi nei quali marescialli e generali austriaci carichi di pennacchi e gale sfilano arrendendosi dinanzi a un ironico Napoleone. Loro sono più eleganti, è indubbio, ma il vincitore è l'omiciattolo in cappottino grigio. E così, oltraggiato da questi inopportuni ricordi di Mantova e di Ulma, fu invece un Gattopardo irritato a entrare nello studio. Don Calogero se ne stava lì all'impiedi, piccolissimo, minuto e imperfettamente rasato. Sprovvisto del senso di adattamento dell'abito alle circostanze che nel principe era innato, il sindaco aveva creduto far bene vestendosi quasi in gramaglie. Egli era nero quasi quanto padre Pirrone, ma mentre questi si sedette in un cantuccio assumendo l'aria marmoreamente astratta dei sacerdoti che non vogliono pesare sulle decisioni altrui, il volto di lui esprimeva un sentimento di avida attesa, quasi penoso da guardare. Si iniziarono subito le scaramucce di parole insignificanti che precedono le grandi battaglie verbali, ma fu Don Calogero a disegnare il grande attacco. «Eccellenza», chiese, «ha ricevuto buone notizie da Don Tancredi?» Nei piccoli paesi allora il sindaco aveva modo di controllare inofficiosamente la posta e l'inconsueta eleganza della lettera di Tancredi lo aveva forse posto in guardia. Il principe, quando questa idea gli passò per la testa, cominciò ad irritarsi. «No, Don Calogero, no, mio nipote è diventato pazzo!» «Ma esiste una dea protettrice dei principi. Essa si chiama Buone Creanze e spesso interviene a salvare i Gattopardi dai mali passi. Però gli si deve pagare un forte tributo. Come Palla di Atena interviene a frenare le intemperanze di Odisseo, così Buone Creanze si manifestò a Don Fabrizio per fermarlo sull'orlo dell'abisso. Ma egli dovette pagare la salvezza divenendo esplicito una volta tanto in vita sua». Con perfetta naturalezza, senza un attimo di sosta, conchiuse la frase. «Pazzo di amore per vostra figlia, Don Calogero, e me lo ha scritto ieri». Il sindaco conservò una sorprendente equanimità, sorrise e si diede a scrutare il nastro del proprio cappello. Padre Pirrone aveva gli occhi rivolti al soffitto come se fosse un capomastro incaricato di saggiarne la solidità. Don Fabrizio rimase male. Quelle taciturnità congiunte gli sottraevano anche la minima soddisfazione di aver stupefatto gli ascoltatori. Fu quindi con sollievo che si accorse che Don Calogero stava per parlare. «Lo sapevo, eccellenza, lo sapevo. Sono stati visti baciarsi martedì 25 settembre, la vigilia della partenza di Don Tancredi. Nel vostro giardino, vicino alla fontana, le siepi di alloro non sempre sono fitte come si crede. Per un mese ho atteso un passo di vostro nipote e adesso pensavo già di venire a chiedere a vostra eccellenza quali fossero le intenzioni di lui». Thank you. Vespe numerose e pungenti assalirono don Fabrizio. Anzitutto, come si conviene ad ogni uomo non ancora decrepito, quella della gelosia carnale. Tancredi aveva assaporato quel gusto di fragole che a lui sarebbe rimasto sempre ignoto. Dopo, un senso di umiliazione sociale, quello di ritrovarsi ad essere l'accusato invece che il messaggero di buone nuove. Terzo, un dispetto personale, quello di chi si sia illuso di controllare tutti e che invece trova che molte cose si svolgono senza che lui lo sappia. Don Calogero, non cambiamo le carte in tavola. Ricordatevi che sono stato io a pregarvi di venire qui. Volevo comunicarvi una lettera di mio nipote che è arrivata ieri. In essa si dichiara la passione sua per la signorina vostra figlia. Passione che io... Qui il principe titubò un poco perché le bugie sono talvolta difficili da dire davanti a degli occhi a succhiello come quelli del sindaco, della quale io ignoravo tutta l'intensità. E da conclusione di essa egli mi ha incaricato di chiedere a voi la mano della signorina Angelica. Don Calogero continuava a rimanere impassibile. Il silenzio durò a lungo. Il principe si spazientì. Adesso, don Calogero, sono io che aspetto che mi dichiariate le vostre intenzioni. Il sindaco, che aveva tenuto gli occhi rivolti verso la frangia arancione della poltrona del principe, se li coprì un istante con la destra, poi li rialzò. Adesso apparivano candidi, colmi di stupefatta sorpresa, come se davvero se li fosse cambiati in quell'atto. «Scusatemi, principe». Alla fulminea omissione dell'eccellenza, don Fabrizio capì che tutto era felicemente consumato. Ma la bella sorpresa mi aveva tolto la parola. Io però sono un padre moderno e non potrò darvi una risposta definitiva se non dopo aver interrogato quell'angelo che è la consolazione della nostra casa. I diritti sacri di un padre però so anche esercitarli. Io conosco tutto ciò che avviene nel cuore e nella mente di Angelica, e credo poter dire che l'affetto di don Tancredi, che tanto ci onora tutti, è sinceramente ricambiato. Don Fabrizio fu sopraffatto da sincera commozione. Il rospo era stato ingoiato. La testa e gli intestini maciullati scendevano giù per la sua gola. Restavano ancora da masticare le zampe, ma era roba di poco conto in confronto del resto. Il più era fatto. Assaporato questo senso di liberazione, cominciò in lui a farsi strada l'affetto per Tancredi. Si raffigurò gli stretti occhi azzurri che avrebbero sfavillato leggendo la risposta festosa. Immaginò, ricordò per dir meglio, i primi mesi di un matrimonio di amore, durante i quali le frenesie, le acrobazie dei sensi sono smaltate e sorrette da tutte le gerarchie angeliche, benevole, benché sorprese. Ancor più in là intravide la vita sicura, la possibilità di sviluppo dei talenti di Tancredi, cui, senza questo, la mancanza di quattrini avrebbe tarpato le ali. Il nobiluomo si alzò, fece un passo verso don Calogero attonito, lo sollevò dalla poltrona e se lo strinse al petto. Le gambe corte del sindaco rimasero sospese in aria. Quando don Calogero ritoccò il pavimento, don Fabrizio pensò: «Debbo proprio regalargli un paio di rasoi inglesi, così non può andare avanti». Padre Pirrone si alzò, strinse la mano al principe. «Eccellenza, invoco la protezione divina su queste nozze. La vostra gioia è divenuta la mia». A don Calogero porse le punte delle dita senza parlare. Poi, con una nocca, percosse un barometro appeso al muro. Calava. Brutto tempo in vista. Si risiedette, aprì il breviario. Don Calogero, diceva il principe, l'amore di questi due giovani è la base di tutto, l'unico fondamento sul quale può sorgere la loro felicità futura. Questo lo sappiamo, punto e basta. Ma noi, uomini anziani, siamo costretti a preoccuparci di altre cose. È inutile dirvi quanto sia illustre la famiglia Falconeri. Venuta in Sicilia con Carlo d'Angiò, essa ha trovato modo di continuare a fiorire sotto gli aragonesi, gli spagnoli, i re Borboni, se mi è permesso nominarli dinanzi a voi. E sono sicuro che prospererà anche sotto la nuova dinastia continentale. Dio guardi. Non era mai possibile conoscere quando Don Fabrizio ironizzasse o quando si sbagliasse. Furono pari del regno, grandi di Spagna, cavalieri di Santiago. Sono sicuro che vostra figlia, con la sua rara bellezza, ornerà ancor di più il vecchio tronco dei Falconeri e con la sua virtù saprà emulare quella delle sante principesse, l'ultima delle quali, mia sorella buonanima, certo, benedirà dal cielo gli sposi. E Don Fabrizio si commosse di nuovo, ricordando la sua cara Giulia, la cui vita spregiata era stata un perpetuo sacrificio dinanzi alle stravaganze frenetiche del padre di Tancredi. In quanto al ragazzo lo conoscete, e se non lo conosceste, ci son qua io, che potrei garantirvelo in tutto e per tutto. Tonnellate di bontà ci sono in lui, e non sono io solo che lo dico, non è vero, padre Pirrone? L'ottimo gesuita, tirato fuori dalla propria lettura, venne a trovarsi ad un tratto dinanzi a un dilemma penoso. Era stato confessore di Tancredi e di peccatucci suoi, ne conosceva più d'uno, nessuno veramente grave, si intende, però tali ad ogni modo da detrarre parecchi quintali alla massiccia bontà della quale si parlava, di natura poi tutti da garantire una ferrea infedeltà coniugale. Trovò rifugio nella prudenza, fra le virtù cardinali la più duttile e quella di più agevole maneggio. Il fondo di bontà del nostro caro Tancredi è grande, Don Calogero, ed egli, sorretto dalla grazia divina e dalle virtù terrene della signorina Angelica, potrà diventare un giorno un buon sposo cristiano. La profezia, arrischiata ma prudentemente condizionata, passò liscia. Ma Don Calogero, proseguiva il principe masticando le ultime cartilagini del rospo, se è inutile parlarvi dell'antichità di casa Falconeri, è anche disgraziatamente inutile, perché lo sapete già, dirvi che le attuali condizioni economiche di mio nipote non sono eguali alla grandezza del suo nome. Il padre di Tancredi, mio cognato Ferdinando, non era quel che si chiama un padre preveggente. Le sue magnificenze di gran signore, aiutate dalla leggerezza dei suoi amministratori, hanno gravemente scosso il patrimonio del mio caro nipote e pupillo. Durante il periodo della mia tutela sono riuscito a salvare la sola villa, quella vicino alla mia, mediante molti cavilli legali ed anche in grazia di qualche sacrificio che del resto ho compiuto con gioia, tanto in memoria della mia santa sorella Giulia come per affetto per quel caro ragazzo. È una bella villa, la scala è disegnata da Marvuglia, i salotti erano stati decorati dal serenario, ma per ora l'ambiente è in miglior stato, può appena servire da stalla per le capre. Gli ultimi ossicini del rospo erano stati più disgustosi del previsto, ma insomma erano andati giù anch'essi. Adesso bisognava sciacquarsi la bocca con qualche frase piacevole, del resto sincera. Ma, Don Calogero, il risultato di tutti questi guai, di tutti questi crepacuori, è stato Tancredi. Noi altri queste cose le sappiamo. È forse impossibile ottenere la distinzione, la delicatezza, il fascino di un ragazzo come lui, senza che i suoi maggiori abbiano dilapidato una mezza dozzina di grossi patrimoni. Almeno in Sicilia è così. Una specie di legge di natura, come quelle che regolano i terremoti e le siccità. Thank you. Tancredi non è un giovane qualsiasi, Don Calogero, proseguì Don Fabrizio. Egli non è soltanto signorile ed elegante. Ha appreso poco, ma conosce tutto quello che si deve conoscere nel suo ambiente, gli uomini, le donne, le circostanze, il colore del tempo. È ambizioso ed ha ragione di esserlo. Andrà lontano. E la vostra Angelica, Don Calogero, sarà fortunata se vorrà salire la strada insieme a lui. E poi, quando si è con Tancredi, ci si può forse irritare qualche volta, ma non ci si annoia mai. E questo è molto. Sarebbe esagerato dire che il sindaco apprezzasse le sfumature mondane di questa parte della conversazione del principe. Essa, all'ingrosso, non fece che confermarlo nella propria sommaria convinzione dell'astuzia e dell'opportunismo di Tancredi. E di un uomo astuto e tempista egli aveva bisogno a casa, e di null'altro. Si sentiva, si credeva uguale a chiunque. Gli rincresceva financo di notare nella figlia un certo sentimento amoroso per il giovanotto. «Principe, queste cose le sapevo, ed altre ancora, e non me ne importa niente». Si rivestì di sentimentalità. «L'amore, principe, l'amore è tutto. Ma io sono un uomo di mondo e voglio anch'io porre le mie carte in tavola. Sarebbe inutile parlare della dote di mia figlia. Essa è il sangue del mio cuore, il fegato fra le mie viscere. Non ho altra persona a cui lasciare quello che posseggo, e quello che è mio è suo. Ma è giusto che i giovani conoscano quello su cui possono contare subito. Nel contratto matrimoniale assegnerò a mia figlia il feudo di 7 soli. Di salme 644, cioè ettari 1680, come vogliono chiamarli oggi, tutto a frumento, terre di prima qualità ventilate e fresche, e 180 salme di vigneto e uliveto a gibil dolce, e il giorno del matrimonio consegnerò allo sposo 20 sacchetti di tela con 1000 onze ognuno. Io resto con una canna nelle mani, aggiunse, convinto e lieto di non essere creduto. Ma una figlia è una figlia. E con questo si possono rifare tutte le scale di Marrugge e tutti i soffitti di Sorcionero che esistono al mondo. Angelica deve essere alloggiata bene. La volgarità ignorante gli sprezzava da ogni poro. Malgrado ciò, i suoi due ascoltatori furono sbalorditi. Don Fabrizio ebbe necessità di tutto il suo potere di controllarsi per nascondere la sorpresa. Il colpo di Tancredi era più sbardellato di quanto potesse supporsi. Padre Pirrone, lui, fece schioccare la lingua sul palato, poi, infastidito per aver rivelato il proprio stupore, si provò a trovare una rima all'improvvido suono, facendo scricchiolare la sedia e le scarpe, sfogliando con fragore il breviario. Non riuscì a nulla e l'impressione rimase. Per fortuna, una improntitudine di Don Calogero, la sola della conversazione, tirò tutti dall'imbarazzo. «Principe», disse, «so che quello che sto per dire non farà effetto su di voi che discendete da Titone imperatore e Berenice regina, ma anche i Sedara sono nobili. Fino a me essi sono stati una razza sfortunata, seppellita in provincia senza lustro, ma io ci ho le carte in regola nel cassetto, e un giorno si saprà che vostro nipote ha sposato la baronessina Sedara del Biscotto. Titolo, concesso da Sua Maestà Ferdinando IV sulle secrezie del porto di Mazara. Debbo fare le pratiche. L'uscita araldica di Don Calogero recò al principe l'impareggiabile godimento artistico di vedere un tipo realizzarsi in tutti i suoi particolari e che il proprio riso represso gli addolcì la bocca fino alla nausea. La conversazione, in seguito, si disperse in mille rivoli inutili. Don Calogero promise di ritornare l'indomani mattina per recare il non dubbio consenso di Angelica e si congedò. Fu accompagnato per due salotti, fu riabbracciato e scese le scale mentre il principe, torreggiando dall'alto, guardava rimpicciolirsi quel mucchietto di astuzia, di abiti mal tagliati, di oro e di ignoranza che adesso entrava quasi a far parte della famiglia. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it